Sono le ore 23:51 di mercoledì 12 giugno 2024. E questo sarà un intervento, sarà una registrazione un po' diversa dalle altre. Cerchiamo anche di sfuggire forse per un attimo dalla tritacarne dell'attualità. Troppe volte ci fa dire cose su argomenti non decisi da noi, magari anche senza rendercene conto, perché vorrei commentare qualcosa forse di molto personale, anzi sicuramente qualcosa di molto personale, e cioè questa, non so quanto consapevole e progressiva mia tendenza all'avvicinarmi a tutto quello che non capisco. Felicemente, devo dire, senza nessuna reale frustrazione, perché questa è una delle chiavi fondamentali, io credo, cioè l'avvicinarsi a quello che non capiamo, non tanto per uscire dalla comfort zone e dagli ambienti di cui riconosciamo le forme, gli angoli, i suoni, i colori, eccetera, eccetera. Né credo soprattutto non credo nemmeno si possa parlare di una ricerca di ciò che è anticonvenzionale, che è non convenzionale. Credo semplicemente che sia la ricerca di un metodo nell'avvicinarsi a cose che non capiamo, che ci fa rovesciare la dittatura del doversi far capire noi per primi, che è secondo me uno dei grossissimi problemi che abbiamo, cioè nel momento in cui, per intenderci, la cosiddetta comunicazione prende il sopravvento sulla cosiddetta informazione. Una delle regole di, è triste dirlo, lo dico davvero stringendo i denti, noi comunicatori, e finisco di stringere i denti, è appunto quella che costituisce una premessa e quindi determina poi tutte le conclusioni, di doversi sempre e comunque far capire dal maggior numero di persone possibili. E già in questo c'è naturalmente una natura compromissoria in questa affermazione, perché c'è la contraddizione di dover denunciare il fatto di appartenere comunque a una convenzione, che è la convenzione per esempio del linguaggio. Cioè il linguaggio è una tecnologia e ci crea dei grossi problemi in questo senso, perché noi vorremmo essere universalisti, vorremmo essere enciclopedici attraverso questa tecnologia per sua natura compromissoria e quindi imperfetta, il linguaggio. Vorremmo appunto essere capiti da un numero indefinito di persone. E tra l'altro, ecco, la cosa che qui davvero passo alle mie reazioni istintive più brutali, mi fa venire il sangue agli occhi, è l'idea stessa che farsi capire da tutti, cioè solo chi compie lo sforzo sempre e comunque di utilizzare questa tecnologia compromissoria per farsi capire da tutti, sarebbe un vero democratico. E questo praticamente rende un vero democratico, per esempio, Berlusconi, quando stabilisce che tutta la comunicazione politica che lui fa dovrà vincere proprio perché sarà compresa anche da un bambino di 3 anni. No, noi poi sappiamo che cosa questa degenerazione del pubblico infantilizzato avrebbe portato nel ridurre tutta la politica a un corpaccione che reagisce a riflessi condizionati e soprattutto nei confronti del quale non viene svolta nessuna pedagogia della complessità, no? Che annulla in sé davvero il messaggio politico in quanto tale. Però senza tornare per forza ai danni del berlusconismo, su cui mi sono anche troppo speso in passato, dico semplicemente che considerare democratico il farsi capire sempre e comunque da tutti Significa quindi considerare democratico non solo Berlusconi, ma anche, che so, Mussolini, quando, dialogando con Ugo Oietti, e questo è riportato nella produzione letteraria, negli appunti di Ugo Oietti, no? Quando Mussolini disse che la regola principale di tutta la sua comunicazione, e qui c'è una parola che ne nasconde un'altra, che è propaganda, la regola principale della propaganda è anzitutto farsi capire, virgola, capire, virgola, capire. Ora, io mi chiedo se queste sono le ossessioni di un personaggio come Benito Mussolini, che si rifà in modo anche esplicito a Machiavelli, mi chiedo come si possa inquadrare questo tipo di desiderio all'interno di un discorso democratico. E quindi, però, senza voler fare teoria, e semplicemente cercando un approccio empirico, no? E sperimentando il processo su se stessi, ripeto, in modo quasi istintivo, io mi sono allontanato da tutto ciò che vedo compiere uno sforzo del voler essere capito, per esempio, anzitutto da me, no? Già ormai sono diventato sospettoso da tutto ciò che vuol farsi capire. E invece molto, molto più attratto da ciò che non ha la pretesa di saturare l'idea stessa di essere capiti, perché appunto la premessa dell'idea di essere completamente capiti dal massimo numero di persone è l'aver fissato un'autorità, un principio di autorità, che stabilisce intanto che cosa deve essere capito per tutti, che è un principio che la moltitudine dei contenuti e dei confronti disponibili, per esempio in rete, secondo me ha già messo in discussione da una ventina d'anni. Quindi quell'idea di comprensione come chiavistello universale della comunicazione e quindi della propaganda appartiene a un'epoca superata ormai dalla tecnologia. Siamo così esposti al confronto che, tutto sommato, quando ci troviamo sempre di fronte al dilemma del dover ridiscutere e quindi forse non capire ciò che abbiamo incontrato, bene, quello è davvero il sale della conoscenza. E appunto, sulla mia pelle, questo significa inerpicarmi sempre comunque sui percorsi più impervi, essere attratto non dall'autostrada ma dal sentiero di campagna, che non so dove conduce. E questo non solo metaforicamente, ma anche fisicamente, nelle geografie post-pandemiche, no? Fatte soprattutto di percorsi non legati alla destinazione d'uso, no? È uno dei temi a me più cari, anche nell'ultimo libro che ho scritto, Stiamo sprecando internet, no? Rifuggire dalla destinazione d'uso dei luoghi. E se esistono anche i luoghi della conoscenza, i sentieri ti portano a incontrare cose che felicemente non vuoi capire. Io, per esempio, sulla tanto vituperata Wikipedia amo stare sulle pagine dei temi più incomprensibili, proprio per i miei limiti evidenti, no? Pensiamo alla meccanica quantistica, io non ho mai studiato niente del genere. Se leggo anche Wikipedia capisco il 20%, ma quel 20% per me è molto molto più florido del 100% di qualcosa che riguarda, che so, le scienze sociali, che sono il mio ambito di studi. E trasferendo tutto questo nell'universo dei contenuti, per esempio disponibili in rete, questo è ciò che mi ha avvicinato, in modo direi assolutamente inesorabile, a blog come Slow Forward o Gamma, o autori come Marco Giovenale, che è uno degli esponenti più interessanti nelle scritture di ricerca. Consiglio a tutti il suo ultimo libro, Oggettistica, che da solo, insomma, basterà sfogliare per rendersi conto di cosa sia davvero di straordinariamente rivelatore la scrittura di ricerca. rivelatore anche proprio nella non comprensione del processo e anche del merito di ciò che lui scrive, oppure anche l'ultima produzione di letteraria di Francesca Perinelli, che si intitola La Saga e di cui ho ascoltato la presentazione poco fa, ho solo sentito qualche lettura, non ho letto il suo libro, che viene riscritto con una copertina che ricorda un po' la besciamella. Non l'ho sfogliato, non me lo sono ancora trovato tra le mani, però bastano le letture per rendersi conto che siamo ancora in quel felice solco di inafferrabilità. Ecco, io credo che tutte le volte che siamo di fronte a qualcosa di inafferrabile, senza che sia necessariamente, ecco, subito, semplicisticamente inquadrato come un gioco, come una gamification del concetto, della parola, allora siamo di fronte di per sé a una chiave per scardinare tutto ciò che è necessario, come drammaticamente necessario il farsi capire sempre e comunque. Geister d'Or, David Salmon, Emmanuel Vieillard, pianisti. Niccolò Paganini. Introduzione e variazioni sull'aria di Tanti palpiti.